America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, una maratona tutta kenyota, quella di ieri a New York, decisa sia per gli uomini che per le donne negli ultimi secondi. Duello fra kenyote, ha vinto Mary Keita Newt in 2 ore 57 minuti 7 secondi. Pensate, appena 2,5 secondi di vantaggio su Jelagat Sungkong. Finale entusiasmante per gli uomini. Il kenyota Wilson Kipsang, 32 anni, contro l'etiope Lelisa De Sisa, 24 anni. Una battaglia personale, una gomitata da parte di De Sisa Kipsang, vicini al traguardo. Sprint di Kipsang, che vince in 2 ore 9 minuti 59 secondi e ottiene il titolo mondiale per la terza vittoria in una grande maratona in 2 anni. Italiani, ottimo risultato per Valeria Strani, ottava, 2 ore 29 minuti 23 secondi. Danilo Goffi, primo degli italiani, per lui 2 ore 19 minuti e 43 secondi. C'erano anche in gara i ragazzi di San Patrignano per dimostrare che la lotta contro la droga si può vincere anche con una maratona a New York. Ma la maratona è il passato, il futuro sono le elezioni di domani in America e dunque dedico la puntata di oggi al midterm americano. We've got a tough map. A lot of the states that are contested this time are states that I didn't win. And so some of the candidates there, it is difficult for them to have me in the state because the Republicans will use that to try to fan Republican turnout. Barack Obama che dice è una tornata elettorale difficile. Molti democratici corrono in stati cruciali dove io non ho vinto e per loro è difficile avermi lì, perché i repubblicani userebbero la mia presenza per cercare di mobilitare, incoraggiare la partecipazione repubblicana al voto. Ma questi sono democratici che hanno votato le mie proposte in Congresso. Barack Obama che spiega come mai non è stato invitato, non è andato a nessuna delle manifestazioni elettorali, perché i suoi compagni di partito lo considerano un peso, non un vantaggio, nel momento in cui ci si deve presentare agli elettori. Questo è il dato di fondo che caratterizza le elezioni di domani, 4 novembre, martedì, il primo martedì del mese, quando si voterà per rinnovare la Camera, 435 deputati, un terzo del Senato. Il pronostico degli esperti, degli analisti, è che i democratici perderanno il Senato. Una svolta, dunque, una punizione per Obama e molte contraddizioni. When I came into office, our economy was in crisis. We had unemployment up at 10%. It's now down to... Ecco Obama che parla di economia, dice: quando sono stato eletto la nostra economia era in crisi, avevamo un tasso di occupazione al 10%, ora siamo al 5,9%. Insomma, Obama cerca di difendersi in questa intervista con Steve Croft di CBS 60 Minutes. In effetti abbiamo visto la settimana scorsa il tasso di crescita dell'economia è stato del 3,5%, eppure il 43% dell'opinione pubblica continua a mettere l'economia al primo posto nei suoi pensieri. Perché? Non c'è stato il trickle down. Solo il 28% degli americani ritiene che oggi, dal punto di vista economico, le cose siano migliorate. Perché se è vero che l'occupazione si è ripresa e l'economia sembra andare a gonfie vele, la percezione è che i benefici vadano soprattutto alle classi più ricche, alle aziende che macinano buoni profitti per i loro azionisti. Come ci hanno confermato le statistiche dell'economista francese Thomas Piketty, la classe media in America non sta bene, il reddito reale americano non è migliorato. Aggiungiamo che il virus dell'Ebola con il pericolo di epidemie interne crea un senso d'angoscia, le minacce dell'ISIS, del terrorismo islamico, si aggiungono al fardello che deve tenere sulle spalle questo presidente. Pensate che nel 2012 solo il 2% degli americani pensava che il terrorismo fosse una minaccia. Oggi siamo arrivati al 21%. Dunque ci sono molte sfide. L'umore di oggi è un umore per il cambiamento politico. Io credo che questo cambiamento ci sarà. Con me ai microfoni di America 24 un amico, un collega, Roberto Pesenti, che è stato corrispondente del Messaggero. Buongiorno Roberto. Buongiorno Mario. Allora Roberto, 1996, Clinton. Clinton è stato punito, come qualcuno dice sarà punito Barack Obama. Con Reagan le cose andavano malissimo all'inizio, poi l'economia si è ripresa, ma la gente allora pensava che le cose andassero meglio, non come oggi. Perché? La differenza è l'umore. C'è un atteggiamento psicologico degli americani che vorrebbero forse cambiare, ma non trovano i contenuti, le idee nuove su cui poggiare la loro speranza. È un cambiamento vero. Se ci sembra in fondo di tornare indietro al 94, quando Hillary Clinton fu punita dagli elettori per la riforma sanitaria che cercava di portare avanti, e se proprio lei oggi sembra il candidato di punta per diventare presidente americano. Nel 94 gli americani cercavano il cambiamento, lo trovarono, c'era una gran voglia di incassare il dividendo della pace, ricordi Mario? Dopo la fine della guerra fredda arriverà un'epoca in cui i denari per gli armamenti verranno investiti per il progresso, c'era il desiderio di una nuova classe dirigente, Clinton l'aveva prodotta. Non mi pare che oggi dietro questo cambiamento ci sia un progetto nuovo e quindi si ricade nella cupezza di tutte le cronache quotidiane dall'ebola alla situazione medio orientale. Ecco, la situazione medio orientale. Nel 94 Bill Clinton si preparava a bombardare il Kosovo e poi subito dopo i primi bombardamenti in Afghanistan. Sono passati 20 anni da allora e la situazione in quella che allora era assolutamente embrionale oggi è devastante. Gli americani hanno paura. Più l'America è intervenuta e peggio le cose sono andate. Ecco, come ci ritroveremo se tu dovessi immaginare cosa succederà con l'ISIS che avanza, che fa vittime dappertutto, che è priva di scrupoli, di etica, di moralità? Cosa si può fare per arginare questa cosa? Tu hai citato Reagan. Reagan inventò quella famosa frase, il comunismo come Satana, e concentrò le forze del mondo occidentale nella lotta al comunismo, che fu vittoriosa. Non mi pare che in questo momento, 20 anni dopo, ci sia ancora un progetto Satana per unificare le forze dell'Occidente e anche le forze moderate arabe e per sconfiggere questo nuovo totalitarismo. Obama non è riuscito a fare il miracolo che ha fatto Ronald Reagan. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Domani, grande giornata per l'appuntamento della democrazia americana, elezioni del midterm, e dunque dedichiamo la canzone di oggi a Leonard Cohen con un suo classico, non a caso, Democracy. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.